Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È destinato a diventare uno dei romanzi del 2016, fra l'altro era un libro veramente molto atteso. Parliamo di Eccomi, dello scrittore americano Jonathan Safran Foer. È stato pubblicato in Italia da Guanda con la traduzione di Irene Abigail Piccinini. Allora, per quanto riguarda Safran Foer, i romanzi precedenti, che avevano avuto anche un certo successo, Ogni cosa illuminata e Molto forte, incredibilmente vicino, entrambi poi trasformati, diventati film. Il titolo invece di questo nuovo romanzo, Eccomi, in inglese Here I Am, sono qui, è in sostanza la risposta che Abramo aveva dato a Dio quando Dio gli chiese di sacrificare il figlio Isacco, quindi si rifà a parole della Bibbia. Ma veniamo alla trama di questo romanzo. I protagonisti sono Jacob e Giulia. Hanno circa 40 anni, hanno 3 figli. La coppia, che vive a Washington, è in una fase di crisi. Diciamo che comunicano quasi esclusivamente per parlare dei figli. Ma nello stesso tempo è in crisi anche l'identità ebraica della protagonista maschile. Nella seconda parte del libro c'è un terribile terremoto che distrugge Israele e in qualche modo mette i personaggi davanti ad una scelta, cioè andare ad aiutare o no. Ed è questa anche la domanda che si fa il protagonista maschile. Appena ho finito di leggere questo romanzo, ho pensato subito che i temi forti erano la crisi di coppia, appunto, e l'identità ebraica. Poi, in un incontro pubblico, Jonathan Safran Foer ha detto che aveva voluto scrivere un romanzo difficile da riassumere, pieno di punti di vista, di spunti e così via. Allora mi sono chiesta, non ho capito niente di questo romanzo, e un po', insomma, ironicamente gliel'ho domandato, insomma, gli ho chiesto se è poi così sbagliato dire che questi, cioè la crisi di coppia e dell'identità ebraica, sono i due temi principali. Sentiamo che cosa ci ha risposto Jonathan Safran Foer. No, I think you're exactly right that those are the... Credo sia corretto dire che questi sono i due principali temi del romanzo e le principali cause che provocano tutte le diverse crisi di identità, mentali, emotive. Quello che cercavo di dire è che il libro è sull'idea di chi sono, dov'è casa mia, quali sono le scelte che posso fare, come posso tenere unita la mia famiglia. Poi c'è la descrizione del romanzo. Viene scoperto un cellulare con degli SMS, c'è un terremoto in Medio Oriente, ma il punto non è questo. Il punto è cosa questi eventi scatenano. To me it's not the point. The point is what those events unleash. A proposito di eventi quotidiani, questo è un romanzo che parla tantissimo di cose apparentemente insignificanti. C'è questa coppia, Jacob e Giulia, e lei descrive a volte con ricchezza proprio di particolari la loro quotidianità. Fare il caffè, il modo in cui lo fanno, prepararne uno, prepararne due, si lavano i denti, come si spogliano per andare a dormire e così via. Perché ha voluto prendere questo aspetto, cioè la vita quotidiana, per esprimere la crisi di una coppia? Because I think it's true. Proprio perché è così, in quanto la realtà dei fatti è che la maggior parte di noi, in effetti, si comporta in un modo specifico. Non so come lei abbia iniziato la sua giornata e sia arrivata qui, però io mi sono svegliato, ho posticipato la sveglia di 5 minuti, mi sono trascinato in bagno, mi sono chiesto se fare la doccia, poi mi sono vestito, la camicia non era stirata, eccetera. E questo è quello che costituisce la vita vera e propria. Poi queste cose si possono anche fare in coppia, ma ci sono due modi di vedere questi piccoli dettagli. Potrebbero essere considerati distrazioni e uno potrebbe essere portato a pensare: ma se io faccio a meno di queste cose, magari ho più tempo per fare queste cose magiche, tipo andare in gondola a Venezia con la mia compagna o il mio compagno. Oppure l'altro punto di vista è pensare che queste cose sono esattamente quelle in cui risiede la mia felicità. E i personaggi del romanzo effettivamente capiscono troppo tardi che proprio lì, nelle piccole cose, sta la felicità di coppia. Infatti, leggendo il libro, si ha la sensazione che sia Jacob che Giulia pensino sempre che la felicità sia altrove, sia una costante ricerca, sia andare da qualche altra parte fisicamente, ma soprattutto mentalmente ed emotivamente. Questa è una sensazione, secondo lei, che arriva dopo che una coppia ha già passato insieme tanti anni, è una cosa, diciamo, inevitabile, è una caratteristica dei nostri tempi, o dipende dalle singole persone? I assume it depends on every single individual. On the other hand, I've never met. Credo che dipenda dal singolo individuo di cui si parla, ma posso anche dire di non aver mai conosciuto nessuna coppia che non avesse, magari in quantità diverse, nessuna esperienza di questo tipo. E in effetti questa domanda potrei rivolgerla a lei e a tutti i presenti. Mi sembra però che a livello generale esista una sorta di principio universalmente valido. Cioè, mano a mano che le persone diventano più intime e si avvicinano sempre di più a livello di vita quotidiana, molto spesso l'idea di condividere paure, speranze e pensieri si disgrega. È come se noi vivessimo due vite, una al di sopra e una al di sotto. Non appena quella al di sopra delle cose quotidiane prende terreno, l'altra si disgrega. La parte più primitiva è più difficile da vivere in coppia. Below ground, on the level of what is primitive, it becomes more difficult to be with somebody else. A proposito di due vite, c'è uno dei figli di questa coppia, Sam, che gioca ad Other Life, anzi non gioca, non si può dire giocare, ma partecipa attivamente a questa realtà virtuale, quindi si crea insomma un personaggio e vive questa realtà virtuale. A un certo punto del romanzo lei scrive che in Other Life non si riesce a vivere il presente, perché è una realtà virtuale appunto, ma anche nella vita vera, per esempio, Jacob e Giulia non riescono a vivere il presente. Perché è così difficile vivere il presente? Non credo sia solo di Jacob e Giulia il problema. Well, in a way that's what the title refers to, that here I am. Like, why is it so difficult to be in only one place as only one person? In effetti, il titolo del romanzo fa riferimento proprio a questo, cioè ecco perché è difficile essere una persona integra e unica, proprio perché si hanno sempre tantissimi incentivi a rivolgersi altrove e quindi se qualcuno è insoddisfatto della propria situazione presente, o decide di lavorarci su, o nella maggior parte dei casi, scappa. Quindi, ad esempio, abbiamo Giulia che crea queste case di fantasia. L'altrove di Jacob è rappresentato da questo elenco di agenzie immobiliari a cui lui si interessa e dal programma televisivo al quale lavora di nascosto in cantina. Sam, poi, vive addirittura in una realtà virtuale. Probabilmente, e questa potrebbe essere una regola universale, tendiamo a cercare il meglio al di fuori di noi, anziché migliorare quello che già abbiamo. Probably a universal thing, seeking what is better outside of yourself rather than seeking ways to improve the thing that you already have. Uno degli altri temi, insomma, preponderanti di questo romanzo è la questione dell'identità ebraica, che lei affronta con tutte le sfumature possibili, perché c'è l'ebreo, insomma, ortodosso, molto estremista quasi, e invece c'è Jacob che ha, come dire, non delle difficoltà, ma delle perplessità su che cosa voglia dire essere ebreo americano, e si nota la differenza fra lui e, per esempio, i suoi cugini che vivono in Israele, quindi vivono un concetto di ebraicità diversa. È così multiforme il concetto di ebraicità. Perché ha deciso di accendere una luce su questo aspetto? Well, it's definitely multifaceted. Ci sono molte sfaccettature che io cerco di presentare, ma d'altra parte, per quanti ebrei ci sono nel mondo, ci sono altrettanti modi di concepire l'ebraismo che vanno dalla negazione dell'essere ebrei fino all'essere ultra-ortodossi. L'obiettivo del romanzo, però, non è quello di rappresentare queste varie tipologie. Mi sono concentrato su una sola famiglia, perché la conoscevo molto bene e in un certo senso mi ci identificavo, senza esaminare le loro verità. Ho voluto capire come la loro esperienza poteva diventare, in un certo senso, universale. The particular truths about them, but the ways that the things they're experiencing might be universalized. Quando parlo con scrittori ebrei, in particolar modo ebrei israeliani, non so, David Grossman, Edgar Keret, Amos Oz, loro mi dicono sempre che la loro ebraicità è fondamentale in quello che scrivono. Cioè, se non fossero stati ebrei non avrebbero scritto determinate cose. Quanto conta per lei l'ebraicità nella sua produzione letteraria, proprio in quello che scrive? La influenza o no? Clearly it influences me a lot. Influisce tantissimo sulla mia produzione letteraria, ma la differenza tra questi scrittori che lei ha menzionato e me è che per me questa materia è fonte di sorpresa costante. E poi non dimentichiamo che questi scrittori che vivono in Israele parlano la lingua quotidianamente, si attengono attentamente al calendario ebraico, hanno la loro idea degli Stati Uniti, che è ovviamente diversa dalla mia. Diciamo che l'ebraismo è qualcosa con cui io a volte mi trovo in conflitto, mentre loro si trovano a proprio agio. I feel like I really actively wrestle with. It's not something that I feel sort of altogether comfortable with. L'ultimo suo romanzo è di circa 10-11 anni fa. Lei non è uno scrittore particolarmente prolifico, insomma, conosciamo, questo è il suo terzo romanzo, il suo quarto libro. Qual è il suo approccio alla scrittura e alla creazione di un romanzo? Perché ci mette tanto ad arrivare magari all'idea di scriverlo e poi a scriverlo? It's funny, when I was in college, La cosa strana è che quando ero all'università ero uno di quelli che scriveva di più del mio corso. Addirittura potevo consegnare una quarantina di pagine alla settimana. Ero uno scrittore molto rapido e devo dire che scrivo anche adesso molto velocemente. È solo che il mio desiderio di consegnare pagine alla stampa è diminuito, perché non mi piace più scrivere tanto, ma scrivere cose di cui vado orgoglioso. E queste pagine per cui io possa sentirmi fiero sono più difficili da scrivere. Penso, senza falsa modestia, che potrei tranquillamente pubblicare un libro ogni 3 anni. Forse dovrei farlo, però non è il percorso che ho deciso di fare. Scrivere adesso ha assunto un valore molto più grande nella mia vita e quindi preferisco dedicarmi a progetti più ampi, che prendano tanto tempo e che rispondano alle mie alte aspettative. But in a way one's own expectations for what a book should do. And I think there's also a virtue in that, and it's maybe something I could try. C'è una domanda che non faccio mai in questo programma agli scrittori, cioè se i romanzi sono autobiografici, perché è evidente che ogni scrittore mette sempre qualcosa di sé in quello che scrive. Però stavolta devo contraddire me stessa, perché leggendo il suo romanzo e conoscendo anche la sua storia personale, perché pubblica naturalmente, ho avuto la sensazione che questo sia un romanzo molto più intimo, più personale dei suoi precedenti. Tant'è vero che ho fatto una gaffa a un certo punto. Su Facebook ho scritto che si parlava della crisi di una coppia ebreo-newyorkese e non di Washington, perché evidentemente nella mia mente l'ho legata alla sua vita. Non voglio naturalmente entrare nella sua vita privata, però vorrei capire quanto effettivamente e se questo libro è più intimo e personale rispetto ai precedenti. It is more intimate and personal, but it's not more autobiographical. È decisamente un libro più intimo e più personale rispetto agli altri, ma non è più autobiografico. In effetti, devo dire che poco prima che uscisse il romanzo è stata fatta una piccola anticipazione sul New York Times. Mio padre l'ha letta e ha detto: oh, ambientato a Washington, una coppia, 3 figli, divorzio, eccetera. Sicuro di volerlo pubblicare? E io gli ho risposto: papà, leggilo e poi ne riparliamo. Mio padre l'ha letto e alla fine è andato tutto bene. E chiunque tra i miei amici lo avesse letto e potesse pensare di essere nel libro, alla fine non ci si è ritrovato, perché è una storia totalmente diversa rispetto alla mia vita. Detto ciò, anche se gli eventi e le circostanze non coincidono con quelle della mia vita, è un libro intimo e personale, ma non so bene perché. Probabilmente questa è una mia idea. E sono riuscito, attraverso il coro di voci che ho creato, a catturare un qualcosa della mia visione del mondo. Is maybe the first time where I feel like I captured something about my own perspective or way of seeing and thinking. E questo era Jonathan Safran Foer in libreria con Eccomi, pubblicato in Italia da Guanda. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta. Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14:30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Il cacciatore di libri. La premessa è doverosa. Il libro di cui vi parlo ora è stato scritto da una mia amica. L'ho preciso subito prima perché mi sembra corretto, insomma, che i giornalisti, quando intervistano i loro amici, che sono anche scrittori, lo debbano dichiarare all'inizio. Quindi potete prendere le mie parole e pesarle come volete, insomma. Lei è Francesca Del Rosso. Il libro si intitola Breve storia di due amiche per sempre, pubblicato da Mondadori. Francesca, vabbè, io lo dico, il tuo libro mi è piaciuto, poi gli ascoltatori decideranno loro se sono di parte o meno, ma io in genere sono molto molto equilibrata. È un libro che parla sia di amicizia fra queste appunto amiche, come tu le definisci poi nel titolo, due amiche per sempre, ma parla anche di tradimento. Partiamo dalla voce narrante, che è Tessa, questa donna che ha un marito, ha un figlio. A un certo punto della sua vita scopre, prima sospetta e poi scopre, che il marito la tradisce, tant'è vero che una notte, mentre sta dormendo accanto a lui, pensa: devo guardare bene l'uomo che ho accanto, perché dopo così tanti anni ho il terrore di non riconoscerlo più. Che cosa è successo nella vita di Tessa e di Giorgio, il marito? È successo quello che capita molto spesso e che forse non sempre si scopre, cioè che il marito tradisce la moglie, quindi tradisce la protagonista. Questo tradimento viene scoperto in modo abbastanza banale dalla protagonista, ma in qualche modo questo tradimento non solo crea una frattura grossa chiaramente nella coppia, ma ricorda alla protagonista anche un altro tradimento che lei ha vissuto 20 anni prima e forse più, quando la sua migliore amica l'aveva tradita. E infatti qui si intreccia il tema del tradimento con il tema dell'amicizia, perché diciamo questo elemento, il fatto di essere stata tradita, scatena naturalmente un terremoto emotivo in Tessa, e proprio in quel momento ripensa alla sua amica Clara. Loro da ragazzine erano state veramente molto molto unite. Ci sono delle pagine che tu dedichi alla loro amicizia, oppure riporti, diciamo, delle lettere che loro si erano scritte, in cui si pensa addirittura a un amore profondo fra queste due ragazze. È così? Io penso che l'amicizia adolescenziale sia molto simile a un rapporto d'amore, nel senso che quando due ragazzine dei tempi del liceo si trovano totalmente, si scoprono anche attraverso l'amica che hanno davanti, scatta anche una specie di attrazione fatale, una specie di fortissima affinità elettiva che permette di aprirsi completamente anche proprio con il cuore all'amica che si ha e che si vuole avere vicino per sempre. Secondo me nei tempi dell'adolescenza, quando la vita è fatta di bianchi e di neri, quando la vita è fatta di assoluti, di bene e di male, è facile provare dei sentimenti così forti e così assoluti, appunto. Per cui, come dire, il confine tra amicizia ed amore è veramente molto labile. C'è una forma anche di innamoramento nell'amicizia, assolutamente, no? Ma anche sì, forse da adulti, cioè si conosce una persona e ti piace stare con quella persona indipendentemente se ci sia qualcosa di erotico o meno, insomma. Certamente. Fra Clara e Tess, almeno nel rapporto che viene descritto durante l'adolescenza, si capisce che Clara è la leader, è colei che guida, e Tess va sempre un po' a rimorchio di Clara, la prende un po' come esempio della sua vita. Ma Tess è una ragazza fragile, c'è un punto dove addirittura dici che ha bisogno della sua amica per trovare la sua identità, come dopo in futuro ha bisogno di suo marito per definire se stessa. È pieno di donne e anche di uomini che in qualche modo trovano la loro identità sempre appoggiandosi a qualcuno. Sicuramente Tessa ha una percezione di sé di donna sicuramente fragile e quindi crede di avere bisogno di questo sostegno. In realtà, proprio quando viene tradita dal marito e quando riscopre e riflette da persona adulta su quel tradimento di amicizia verso i 20 anni, probabilmente scopre di sé degli aspetti veramente sconosciuti e quindi ritrova anche una certa forza. Chiaramente nel tempo poi credo che un po' tutti, maturando, riescano poi a fare un po' i conti con se stessi di fronte allo specchio e ritrovare forze e energie che pensavano di non avere. In questo caso sicuramente Tessa riesce a ritrovare se stessa e a capire che forse è più forte di quanto ha sempre pensato. Perché a un certo punto, lo possiamo dire anche senza svelare troppo della trama del romanzo, Tessa e Clara si ritroveranno da adulte. E qui si capisce, appunto, si capiscono tante cose che non possiamo spiegare, ma ci puoi solo dire in che modo reagisce Tessa a questo nuovo incontro e in che modo invece reagisce Clara? Così mi fai troppe domande. Io l'ho letto e lo so. Possiamo dire che comunque c'è da parte di Tessa una voglia di ritrovare quell'amica e forse Clara invece è più restia. Sì, questo lo possiamo dire. Parlando poi delle nostre esperienze personali, io penso questo, che ci sono tantissime persone, immagino tantissimi nostri ascoltatori in questo momento che hanno avuto un caro amico, una cara amica dell'infanzia, poi persa per qualunque motivo che adesso non stiamo a indagare. Quando si pensa di ritrovare quell'amico, si ha sempre la paura di essere delusi da un ritrovo, da un ritrovamento, da un reincontro, perché effettivamente un po' le abbiamo anche idealizzato quel rapporto, e questa paura è quella che secondo me noi nella vita reale abbiamo. La bellezza e la fortuna di poter arrivare a scrivere un romanzo e di dedicarsi alla narrativa è proprio quella di creare invece nella fiction qualcosa che forse nella realtà non succede, non può succedere o comunque succede raramente. Quindi in questo romanzo in qualche modo queste due protagoniste in modo diverso però riescono a ritrovare quell'affinità elettiva, anche se da persone adulte. Infatti, a proposito dell'amicizia da persone adulte, trovo che sempre più spesso, soprattutto quando si sono superati i 40 anni, se ci si guarda alle spalle si vedono delle persone che sono passate nella nostra vita, con le quali abbiamo condiviso delle emozioni intense, fortissime, magari siamo stati amici intimi per 1 o 2 anni o anche solo 6 mesi e poi paff, si sono dissolti, ognuno è andato per la sua strada. Cos'è che crea questo rapporto intenso di amicizia? Cioè è il fatto per esempio di trovarsi nello stesso momento ad affrontare la stessa situazione? Per esempio 2 donne che hanno divorziato, 2 donne che hanno avuto figli in contemporanea, un uomo che in quel momento è single e vuole trovare una donna, quindi trova un altro uomo che lo spalleggia. Cioè quanto la situazione in cui ci troviamo ci influenza nell'amicizia? Ci influenza tantissimo, e non bisogna dimenticare che anche quelle amicizie che durano pochi giorni, pochi mesi o pochi anni hanno una grandissima valenza per noi in quel momento. Le amicizie non sono tutte uguali, non si può neanche dividere solo tra conoscenti e amici, perché appunto, come dicevi tu, ci sono amici che condividono con te un piccolo percorso della tua vita e hanno avuto una importanza fondamentale proprio perché c'è una condivisione di un evento, di un momento, anche semplicemente di una svolta nella nostra vita. Altri invece che magari rimangono amiche o amici nostri per sempre anche a 600 chilometri di distanza. Insomma, le amicizie sono moltissime, tant'è vero che Aristotele ne ha scritto parecchio sull'amicizia e faceva anche diverse definizioni, giustamente dava diverse definizioni del termine a seconda di quello che si prova e anche del tipo di rapporto che si instaura tra due persone, perché effettivamente ci sono le amiche che sono sullo stesso piano, l'amica che invece magari è più ricca o che ha maggiori interessi, una situazione e dove si crea una gelosia, un rapporto di subordinazione, di invidia, cioè sono tantissime, non è che bisogna necessariamente giudicarle. Qui si parla di un'amicizia per sempre, che è quella dove probabilmente c'è più sogno, c'è più fatalismo, c'è più speranza. Sì, c'è anche forse la voglia di credere in una forma di amicizia così. Secondo Tessa, e anche secondo Francesca Del Rosso, distinguiamo personaggio, naturalmente scrittore, perché non è un libro autobiografico. Cosa conta di più per Tessa alla fine? L'amicizia profonda o l'amore per il marito? E invece per Francesca Del Rosso le cose possono essere messe sullo stesso piano e quindi convivere, o ce n'è una che prende il sopravvento sull'altra? Secondo me per Tessa la risposta è molto, come dirti, ondulante, se si può dire così, nel senso che c'è una fase in cui sicuramente è più importante l'amica e un'altra dove poi ricostruisce comunque la sua famiglia e il suo matrimonio, dove si nota proprio che vuole dare maggiore importanza all'aspetto più familiare. Per quanto mi riguarda invece, come Francesca Del Rosso, ti dico che secondo me sono veramente incomparabili. Non si possono comparare amicizia e amore, e non saprei dire quale sceglierei tra le due. Di certo. No, vabbè, sarebbe insomma una banalità, cosa vuoi però l'amicizia? Ti posso dire una cosa, che sicuramente il tradimento di un'amica, secondo me, se l'amica è con la A maiuscola, è molto più doloroso di quello di un uomo. Ecco, su questo per esempio secondo me gli ascoltatori magari non tutti sarebbero d'accordo, perché spesso si pensa che il tradimento del partner sia la cosa più grave nella vita. Effettivamente il tradimento di un amico o di un'amica ci può veramente rivoluzionare la nostra struttura interna. Grazie allora a Francesca Del Rosso, autrice di Breve storia di due amiche per sempre, pubblicato da Mondadori. L'ho dichiarato all'inizio, io e Francesca Del Rosso siamo amiche e quindi l'ho dichiarato pubblicamente. Vi posso anche dire che io, quando ho finito di leggere questo libro, mi sono commossa, ho detto proprio ufficialmente ho pianto come un vitello. Non so perché, se l'ha scritto la mia amica Francesca Del Rosso, ma credo che tutti quanti ci trovino qualcosa di commovente alla fine, ma non posso dirvi il perché. Amiche per sempre, quindi anche per me Alessandra un'amica per sempre, lo vedremo e lo scopriremo negli anni. Con questa dichiarazione basta, non posso dire più niente. Grazie Francesca Del Rosso, Breve storia di due amiche per sempre, Mondadori. Anche per oggi è tutto, grazie in regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su podcast su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.